Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Serve a parlare, mangiare, respirare, gustare, baciare, sorridere. È a tutti gli effetti un organo multifunzione. Si merita una puntata ad hoc o no? Che ne dite? Leggo dentro i tuoi occhi da quante volte vivi, dal taglio della bocca, se sei disposto all'odio, all'indulgenza. E a proposito di bocca, perché è di lei che parliamo, che cosa vi ha lasciato a bocca aperta e che cosa vi ha lasciato a bocca asciutta? Chiamatemi, non avete altro che da comporre il nostro numero verde che è a vostra disposizione, 800 24 00 24, ma naturalmente potete come sempre scriverci un sms al 349 238 6666, seguirci su Facebook e su Twitter. Intanto noi facciamo un po' di riscaldamento, sorridiamo, è una sorta di stretching per la muscolatura del viso che ha benefici effetti a caduta sul cuore e sul cervello, lo abbiamo detto, lo so, più volte, ma io torno volentieri a ripeterlo perché è meglio un sorriso in più che uno in meno. Allora alleniamoci. Intanto lo faccio anch'io salutando con un bel sorriso il professor Ernesto Di Pietro, osteopata, professore di biomeccanica della colonna vertebrale all'Università di Lugano. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. In effetti il sorriso è uno strumento quasi terapeutico. Ma assolutamente sì, ma certo proprio che sì, ma non solo per noi stessi, ma anche per gli altri che ci circondano. Certo. Il sorriso è, secondo me, l'espressione del benessere, che crea benessere, assolutamente sì. Si dice anche che molte volte si risparmia più con un sorriso che con il broncio, perché con un sorriso semplice una dozzina di muscoli ci aiutano. Pensa che ci sono due muscoli bellissimi, a me molto simpatici, che si chiamano proprio i risori, il muscolo risorio. Dove si trova? Si trova a metà della guancia, sì, più o meno, dal lato della bocca verso l'orecchio, per intenderci. E questo è un muscolo che già si chiama così ed è bellissimo, simpaticissimo. Insieme, insomma, una dozzina di muscoli, un minimo proprio sforzo e un sorriso è fatto. In realtà poi invece star bene, ridere, ciò che aiuta a fare un sorriso, mette in moto molto più muscoli. Certo, sarebbe bello dire che si possa anche dimagrire con un sorriso, ma proprio non è così, ecco, questo no. Però sicuramente il sorriso allenta le tensioni, riduce lo stress. Ma assolutamente sì, soprattutto tutta la muscolatura che molte volte ci dà dei grossi problemi. Quante volte abbiamo la muscolotensione, abbiamo questi mal di testa muscolotensivi, abbiamo dolori addirittura alla schiena, due grandi muscoli dietro la schiena che sono i trapezi, che sono quelli che vanno da metà schiena e arrivano su fino alla nostra cervicale, si espandono sulle spalle. Sono due muscoli che ci danno tanti problemi quando siamo molto stressati, molto cupi. Ecco, un bel sorriso, sarà strano, ma invece proprio così li allenta, ci fa stare molto meglio. Perché ci sono le famose catene muscolari. Bravissima, è proprio per questo. Perché ho imparato, vedi? Alla lunga e batti e batti e batti. 800 24 00 24. Sorridete. Una civiltà che non sorride è una civiltà infelice. E io trovo che ridere, proprio ridere, è una cura, è parte della guarigione. Infatti, non a caso, un'altra delle terapie che ho scoperto in India è la terapia del sorriso, no? Del ridere. La mattina in un parco. Stiamo ascoltando Tiziano Terzani e noi continuiamo la nostra trasmissione tutta intorno alla bocca, questo organo multifunzione. Adesso la bocca potete chiuderla, state lì un attimo e poi provate a riaprirla. È molto facile, ma è anche molto utile perché con questo semplice movimento riusciamo a fare un piccolo test di autovalutazione, che non è autodiagnosi, professore Di Pietro, questo lo sottolineiamo, no, certo, sempre, certo. Ma e dunque questo test serve soltanto a far capire se è il caso di farsi vedere poi da un bravo gnatologo. Lo gnatologo, per intenderci, è un dentista specializzato proprio nella masticazione. Allora, se riuscite a essere davanti a uno specchio, ecco, se avete lo specchietto retrovisore dell'auto, fermatevi ovviamente un attimo, non vorrei avere sulla coscienza qualche incidenti. Problema. Ecco. Allora, metteteveli davanti, state rilassati per un attimo, osservatevi allo specchio. Poi mettete un dito dito, l'indice, come quando dite silenzio, state zitti, shh, ecco questo. Quindi in pratica il polpastrello dell'indice lo mettete sulla punta del naso, mm-hmm. e poi fate scendere il dito fino in modo perpendicolare rispetto a dove avete messo il vostro polpastrello, scende fino ad attraversare il vostro mento. A questo punto, in modo molto lento, dovete impiegarci 3 secondi, mentalmente contate fino a 3, piano piano aprite la vostra bocca, osservate se scende in modo uguale tra destra e sinistra. Se non scende così o fa dei piccoli scatti, sia in apertura, 3 secondi per aprire, sia in chiusura, 3 secondi per chiudere, ecco, se non scende proprio in modo uniforme, è il caso di farsi vedere. Dovete immaginare questa cosa, la nostra bocca equivale a un ponte levatoio di un bel castello. Immaginate questo castello col ponte levatoio che scende e che sale. Per aprirlo e per chiuderlo abbiamo 2 ingranaggi in questo ponte che equivalgono alle nostre articolazioni temporomandibolari. Le trovate scritte come ATM, ma non c'entra con i mezzi pubblici. Proprio articolazioni temporomandibolari. Scendono e salgono questi 2 carrucole che ci fanno tirar su attraverso dei tiranti, delle funi dell'epoca che sono i nostri muscoli. Allo stesso modo si comporta la bocca, con queste funi che sono legate alla nostra cervicale. Mi fa rimanere, professor Di Pietro, come si dice, a bocca aperta. E io ho chiesto proprio agli ascoltatori di raccontarci che cosa e chi l'ha fatta rimanere a bocca aperta e che cosa e chi a bocca asciutta. Mi ha già risposto Alessandro da Udine: a bocca aperta, Berlino; a bocca asciutta, ogni giorno la maleducazione. Alessandro, vado avanti con un sorriso. 800 24 00 24. Non ti riconosco più, nonnina, mi hai spaventata. Non mi ero mai accorta che avessi una bocca così grande. Vero? La mia bocca è così grande perché serve a mangiarti meglio. A proposito, a chi non è mai capitato di restare a bocca asciutta, non solo in senso figurato, la bocca secca o asciutta è un disturbo frequente, diffuso, spesso sottovalutato, ma molto fastidioso. Può essere temporaneo, pensate ad esempio quando ci si secca la bocca perché siamo emozionati, preoccupati, un po' ansiosi, o magari il problema si ripete invece in modo inspiegabile di notte, di giorno, e rimane, permane per alcune ore e alcuni giorni. Qui però in studio ve li sto facendo scoprire poco a poco per farvi rimanere a bocca aperta, e tornate a trovarci il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai nostri ascoltatori. A bocca asciutta. A bocca asciutta, sì. Non dicevamo prima, si rimane a bocca asciutta quando si è molto preoccupati. Ricordiamoci il buon Fantozzi con la sua salivazione azzerata. Ecco, da lì la preoccupazione ci porta a queste reazioni, e una di queste è proprio la secchezza delle fauci, come diciamo noi. Ma questa secchezza, come dicevi giustamente, quando si ripete abbastanza spesso è un segnale negativo. Allora, il caso più frequente è quello di una mancanza di salivazione che si accompagna spesso anche a una mancanza di lacrimazione. È la cosiddetta sindrome dell'occhio secco, perché quello è il segnale più eclatante, ma che a volte si manifesta anche con la bocca secca, la bocca asciutta. Il nome è difficile, sindrome di Sjögren, ma in realtà è abbastanza diffusa e spesso sottodiagnosticata. Quindi un primo elemento è questo, occhio, da tenere presente. Se insieme alla bocca vi si seccano anche gli occhi, esattamente, o avete questo fastidio, perché quindi, sennò quasi la diagnosi è lì, che se noi non possiamo farla, ma possiamo dire che quasi è certa. Beh sì, certo, ecco. Se c'è questo fastidio occorre fare un piccolo approfondimento di indagine, ma poi la diagnosi è abbastanza certa. Un altro caso di bocca asciutta che spesso di notte si manifesta è coloro che non respirano bene col naso. Il russatore, ad esempio, è un'altra persona che spesso ha la bocca asciutta. Ancora può avere la bocca asciutta chi ha un inizio di diabete, un'iperglicemia. La sensazione di sete porta questa bocca asciutta a seccarsi delle fauci. Avremo ancora la bocca asciutta se l'ambiente in cui dormiamo è un ambiente poco adatto. Tante volte noi abbiamo degli ambienti soprattutto in inverno con i termosifoni senza umidificatori che portano ad asciugare troppo l'aria, e questo ci fa respirare male, e ecco che di nuovo c'è la bocca asciutta. E poi ci sono anche altre situazioni in cui magari le ghiandole salivari non producono come dovrebbero. Qualche volta c'è una calcolosi delle ghiandole salivari che può ridurre la salivazione. Questa calcolosi si manifesta anche con dei dolori, spesso le cosiddette coliche salivari. Sembra un paradosso, ma in realtà sentono dei dolori all'interno della bocca che sono simili a quelli di una colica renale o di una colica addominale. Ecco, tutte queste situazioni non devono essere prese in considerazione se l'episodio è occasionale e legato a momenti di tensione emotiva, ma se si ripete o non è legato a momenti di tensione, necessita di un approfondimento con un medico, necessita di un approfondimento con qualcuno che ci sappia indirizzare bene sulla patologia della bocca. Perché la bocca, come si dice, è un po' lo specchio della nostra salute. E qua in studio, e poi le sorprese temporaneamente sono terminate, ho il piacere di avere il professor Alessandro Nanussi, odontoiatra e docente all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno, buongiorno professore. Buongiorno a tutti. A proposito di bocca, noi sappiamo bene che c'è una relazione molto stretta tra bocca e salute, in particolare tra bocca e cuore. E come? È un risultato delle ricerche degli ultimi anni questo. Oramai abbiamo la certezza che una bocca sana, una bocca in cui la carica batterica sia bassa, ci garantisce anche dalle patologie cardiovascolari. Ovvero, ci sono situazioni in cui problemi infettivi che riguardano la bocca coinvolgono il cuore. È dimostrato assolutamente, ad esempio, che la recidiva dell'infarto è più probabile nei soggetti che hanno una igiene orale scadente o problematiche parodontali non curate. Quindi la raccomandazione è di farsi vedere spesso dal dentista. C'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore. In linea con noi abbiamo Simone, ci chiama da Pavia all'800240024. Buongiorno Simone, benvenuto. Buongiorno. Siamo qua, ha fatto l'esercizio, il test di autovalutazione suggerito dal professor Di Pietro? Com'è andata? Esatto. Mi sono accorto che apro la bocca in modo disarmonico, vale a dire che a un certo punto è come se facesse uno scatto e scende da una parte rispetto all'altra. E mi chiedevo se questo fatto potesse essere collegato a dolori che ho sia a livello cervicale sia ai trapezi, ma anche fino all'inguine. Allora, io, Simone, siamo per radio, ma vorrei raccontarle, mi piacerebbe poterle raccontare la faccia del professor Di Pietro e del professor Nanussi. Dottor Gargiulo, conferma. È un po' come se me l'aspettavo. vieni. Ecco, perché in effetti noi non ci pensiamo quanto la bocca possa indicarci la strada, assolutamente. Perché basta questo semplice test che io vi invito a fare. Mi stanno dicendo dalla regia di stare con la bocca davanti al microfono, ma io sto guardando tutti questi ospiti in questo studio che mi fa molta allegria e mi fa rimanere a bocca aperta. Vorrei proprio che voi provaste a fare questo semplice test. Se non avete tempo di farlo oggi, lo fate magari nel pomeriggio, stasera. E apro una piccola parentesi prima di dare la parola ai miei esperti per rispondere a Simone. Mandateci, che così sono qua, mi guidano. Mandateci una foto su Facebook, una vostra foto con la bocca aperta e la stessa vostra foto con la bocca sorridente. Un sorriso, professor Nanussi, un po' a bocca chiusa, un po' a bocca aperta. Un sorriso ampio, un sorriso di quelli giusti che si fanno quando si è felici veramente. E quindi si mostrano anche i denti, giusto? Si devono vedere. Vedere i denti. Mandatemeli e poi il professor Di Pietro e il professor Nanussi faranno una valutazione, laddove è possibile, se le foto arrivano, se sono corrette, se della vostra situazione. E ci tengono a sottolineare, non è una diagnosi, ma è una valutazione. Allora, tornando al caso di Simone, che dice ho una chiusura disarmonica, quindi anche ha beccato anche il modo corretto per presentarla. Direi proprio di sì, anzi grazie Simone. Questo è quello che ci aspettavamo effettivamente, e anche ci aspettavamo il fatto che potesse avere qualche piccola algia, qualche piccolo dolore nel resto del corpo. Pensate che quando si ha una bocca disarmonica, soprattutto se c'è un problema sui canini che non coincidono, poi magari ce ne parlerà meglio il professor Nanussi, abbiamo dei dolori che possono arrivare alle caviglie. a gonfiare le caviglie, perché noi andiamo in torsione. Noi siamo attraversati da due forze, una che ci spinge verso il basso e una uguale contraria che ci spinge verso l'alto. Queste due forze, se sono in armonia, va tutto bene, possiamo sopportarle, ma se proprio dall'alto i denti cominciano a non toccare bene, tenendo conto che in bocca possiamo arrivare a 70 kg al centimetro quadrato, è una forza esagerata, è la stessa forza delle corde di un pianoforte a coda. Quindi dove prendiamo questa forza? È un po' il ponte levatoio di cui parlavo prima, sì. Proprio attraverso i muscoli, e per avere una forza del genere, se noi dobbiamo sostenere un ponte grande, immaginate i ponti sospesi, Brooklyn per esempio, abbiamo dei tiranti grandissimi che arrivano, più in là arrivano più teniamo. Questa forza viene distribuita nel nostro corpo, se non è armonica tra destra e sinistra ci manda in rotazione. La rotazione può fermarsi alle cervicali, può scendere ai muscoli a metà schiena, per esempio, sono attaccati i nostri muscoli trapezio, può dare dolori lombari e può scendere fino a terra, dipende anche un po' dalle nostre posture e dalle nostre abitudini. Professor Ranussi, quindi l'ipotesi di Simone è corretta? È assolutamente plausibile, tant'è vero che nel paragone del ponte levatoio io aggiungerei addirittura che ci sono delle corde che regolano la risalita del ponte tirando verso il basso, e dove saranno uniti questi muscoli che si agganciano alla mandibola al di sotto di questa? Sono uniti alle clavicole, sono uniti al resto del corpo. Quindi, quando la mandibola cerca una posizione corretta per chiudere contro i denti, ovviamente a volte è costretta a degli adattamenti che influenzano il resto del sistema. Non è strano quindi che ci sia questa sintomatologia diffusa. Quale esame può fare per capire che parte dalla bocca il problema che Simone avverte? Molti di voi mi stanno scrivendo: sto eseguendo il testo male, sarà la cervicale, l'apertura. Ci sono degli esami specifici? Gli esami sono utili, premettendo che l'indagine clinica, il medico la fa sempre prevalere. Però, quando poi c'è indicazione, noi abbiamo bisogno di valutare numericamente quello che succede. Se vedo qualcuno con gli occhi lucidi, mi viene voglia di provargli la febbre. Se vedo qualcuno che ha una problematica funzionale, mi viene voglia di misurare la sua attività muscolare, per esempio con una elettromiografia di superficie, che è un esame innocuo, sembra un elettrocardiogramma. Soltanto che noi lo facciamo sui muscoli masticatori, quelli che si notano sentendosi le guance quando si contrae la mandibola, e quelli che si sentono sulle tempie nella stessa situazione, temporali masseteri. È una cosa semplice, rapida e indolore. Dottor Gargiulo, stiamo sottolineando l'importanza della bocca, ma noi non possiamo dimenticare una delle funzioni principali, che anche ha un ruolo importante per il nostro benessere, che è quella di una bocca sana. Vuol dire avere una bocca che ha dei denti forti che ci aiutano a masticare correttamente. Ma soprattutto vuol dire che si innesta in un complesso organico, qual è il nostro corpo, che deve essere valutato in tutta la sua completezza e in tutta la sua interezza. Andiamo a sentire una ricerca che commentiamo insieme. Masticate e sorridete, quante cose vi chiedo di fare. Per dimagrire basta masticare lentamente. Secondo i ricercatori dell'Università di Birmingham in Gran Bretagna, questo sarebbe uno dei trucchi su cui si inganna il cervello e quindi il corpo. Da un punto di vista biologico, infatti, far sostare il cibo per più tempo nella bocca non solo aiuterebbe la digestione, la prima digestione avviene in bocca, dicevano una volta le nonne, ma consentirebbe di anticipare il senso di sazietà. E quindi, alla fine, si ha una riduzione del conto calorico, vale a dire meno chili su pancia e fianchi. A giocare un ruolo chiave in questo meccanismo è la grelina, ormone rilasciato dalle cellule gastrointestinali e che attraverso il sangue raggiunge il cervello, decidendo quando è giunto il momento di mangiare e quando quello di fermarsi. La raccomandazione è quello di mangiare con più calma, facendo sostare i cibi almeno 30 secondi in bocca. Masticate, gente, masticate, dottor Gargiulo. Sì, questa è nuovamente la rivincita del low food, del mangiare lentamente, perché se il tempo che noi dedichiamo al mangiare è quello, calcoliamo un'ora di pausa pranzo, se in quell'ora noi mastichiamo più lentamente, ci intratteniamo di più, magari anche con due chiacchiere mentre mangiamo, ecco che non possiamo introdurre una quantità eccessiva di cibo. Non abbiamo bisogno di tanti cibi, noi in realtà oggi viviamo con un conto calorico che è sicuramente in perdita, nel senso che introduciamo sempre più calorie di quante non riusciamo a consumarne, e allora cerchiamo di ridurre le calorie che introduciamo, e magari gli ultimi 10 minuti della pausa pranzo li potremmo anche dedicare a una passeggiata. Eccolo lì. Ci aiuta a consumare di più e ci siamo, no? 800 24 00 24, e vorrei invitarvi a chiamare per effettuare il test in diretta. Ricordatevi di mandarci anche la vostra foto su Facebook. Ma mastichiamo, e durante la masticazione possiamo avvertire anche dolorini o dei rumorini strani. Professor Nanussi, che cosa sono? Attenzione soprattutto ai rumori, perché questi possono essere significativi di una deformazione di un piccolo menisco che c'è all'interno dell'articolazione, che comincia a deformarsi quando noi utilizziamo male la nostra mandibola. Non necessariamente perché sono i denti a darci dei problemi, può dipendere anche da una problematica posturale che fa muovere male la mandibola, proprio per quelle relazioni muscolari di cui parlavamo prima. Andiamo a sentire Rosina, che ci chiama da Modena all'800 24 00 24, e poi a grande richiesta ripetiamo alcuni test: il test del professor Di Pietro e un test che ci vuole suggerire anche il professor Nanussi. Rosina, buongiorno. Rosina? È caduta Rosina. Allora noi possiamo ripetere il test, me lo stanno chiedendo tanti ascoltatori. Professor Di Pietro, prendete un dito, il sì. Dito indice. Mettiamo all'indice proprio questo. Questo è facilissimo. Dunque, davanti allo specchio si fa, o riprendetevi con un telefonino. Allora, con molta calma, davanti come allo specchio. Come tecnologico, vede? A me non sarebbe venuto in mente. Farsi una foto per vedere un po' le nostre rughe, anche del viso, come sono, se tra destra e sinistra non sono uguali, ed è assolutamente normale che non lo siano, però se non tanto la loro profondità, ma anche quello, anche le nostre rughe di espressione. Non guardi se, me però, perché assolutamente, guarda me li fissa. Stavo cercando ma non le trovo. Bravo, questo okay. Mi piace. L'uomo. L'ha educato però, Le rughe, che non riesco a trovare in nessuna donna qui in studio, guardiamo la loro angolazione, soprattutto rispetto alle narici. Se è veramente differente tanto, di tanti gradi, può essere anche un problema masticatorio. Molte rughe, soprattutto i cosiddetti codici a barre, che sono quelle rughettine verticali che ci sono sul labbro superiore. Sì, dove dipendono, si infila il rossetto. Dipendono moltissime volte proprio da un problema della gengiva, come grandezza gengivale, soprattutto perché negli anni magari si ritira un pochino la gengiva, non c'è un buon supporto. Ecco, quindi quel tipo di rughe possono arrivare anche da questo. Per l'esercizio, velocemente, lo ridico subito. Guardatevi anche l'indice. Le rughe. Siete davanti allo specchio? Benissimo. Allora, l'indice, come se doveste dire a qualcuno: state zitto, silenzio. Quindi, in questo modo, il polpastrello, quindi appoggiato sulla punta del naso, l'indice scende. Aprite lentamente la bocca, contando mentalmente sino a 3. E la stessa cosa fate per chiudere la bocca, contate fino a 3 lentamente. Se tutto procede tra destra e sinistra in modo corretto, problemi non ce ne sono. Se invece vedete che comincia a sbandare un po' tra destra e sinistra, fa un click o a un certo punto scatta, forse è il caso di farsi vedere dal professor Nanussi. Ha visto che promo, che pubblicità. Professor Nanussi, anche lei avrebbe vorrebbe suggerire un test di autovalutazione per i nostri ascoltatori? Sì, perché è semplice. Per verificare se la nostra mandibola ha una correlazione importante col resto del sistema posturale, basta mettersi due dita sulla nuca, provare ad aprire forte la mandibola tirando bene, e molti degli ascoltatori noteranno che i muscoli della nuca si irrigidiscono. Qualcuno no, lui può stare più tranquillo, ma quelli che se ne accorgono devono chiedersi a questo punto se qualche problematica che riguarda come minimo la zona delle spalle e del collo è correlabile al modo in cui lui appoggia i denti o comunque usa la propria mandibola, il proprio sistema masticatorio. Questo è un test semplice da fare. Assolutamente. Ce n'è un secondo, molto facile da fare anche questo davanti allo specchio, sempre se non state guidando in questo momento. Basta portare la mandibola un pochino in avanti e portare i denti a toccarsi sulle loro parti più appuntite, sulle creste incisive che si sono davanti. Se voi vedete, portando in avanti la mandibola, che ai lati i denti distano, quelli superiori dagli inferiori, in modo differente destra e sinistra, quindi se lo spazio che c'è fra i denti è maggiore da uno dei due lati, potete pensare che i vostri piani occlusali, li chiamiamo così noi odontoiatri, cioè il piano che delimita i vostri denti, è anomalo e magari questo è correlabile a sua volta a problematiche posturali. Allora fatevi delle domande in più o chiedete a qualcuno. Essere e benessere. Fai solo un po' di ginnastica per rafforzare i bicipiti. Sempre ridere. Allora, noi torniamo a parlare della bocca. Serve per mangiare, parlare, ridere, sorridere, parlare, respirare, questo lo sappiamo tutti, ma possiamo aggiungere anche una funzione che vi farà restare a bocca aperta. Per lo stupore, la bocca, una bocca che si chiude bene, una bocca armonica, serve anche a fare sport. Di questo si occupa una branca dell'odontoiatria, precisamente odontostomatologia dello sport. Esatto. Ecco, lei, professor Nanussi, si occupa proprio di questo presso il suo dipartimento a San Gerardo di Monza, della bocca degli sportivi amatoriali e non. Che relazione c'è? Beh, una bocca che si chiude bene, una bocca che consente ai muscoli che lavorano sulla mandibola di operare al massimo della loro capacità. Quindi, come una volta i rematori delle galere romane utilizzavano una cinghia di cuoio fra i denti per esercitare maggiore forza, e lo sapeva bene chi li utilizzava e gliela forniva, allo stesso modo oggi gli atleti sanno che devono fare attenzione a come appoggiano i denti per non inficiare con un'occlusione anomala la prestazione sportiva. Certo, questo si basa anche sugli studi fatti per curare le persone che tutti i giorni serrano, magari per motivi differenti di tensione o di difficoltà quotidiane che portano a serrare. Tornando all'atleta, quindi, noi cerchiamo nel nostro servizio di odontoiatria sportiva di dare un supporto agli atleti per consentire la miglior funzione stomatognatica possibile. Ma chi si rivolge a voi? Uno sportivo amatoriale, ad esempio, che avverte che corre? Per piuttosto che va in bici o fa palestra, improvvisamente, perché a molti di noi tornerà strano sapere che c'è una branca, il dottor Gargiulo. Non lo sapevo, devo dire onestamente, non lo sapevo. Di questi dentisti che si occupano praticamente in modo particolare, dottor Gargiulo, ho capito bene, dei denti dello sportivo. Esattamente, l'importanza dei denti e delle patologie dei denti sta sempre sottolineata. Ad esempio, una delle cose che per ricordare fa sempre la sanità militare, è quella di portare un dentista ogni volta che un esercito si muove, ogni volta che facciamo una missione all'estero. Una delle branche che si porta, che sta al seguito dell'esercito, è sempre quella del dentista, perché in realtà dal mal di denti banale, andando in avanti, è un tipo di dolore che snerva tantissimo. In questo caso è qui la novità che veramente mi interessa ed è estremamente interessante anche per gli ascoltatori, questo di capire come il rendimento sportivo possa migliorare, magari migliorando proprio la funzione muscolare. Ho capito male, questo non lo so. Assolutamente. È promosso. Infatti ricordo quando un paio di anni fa gli amici della divisione di medicina legale dell'aeronautica militare ci hanno caricati come reparto su un aereo militare e ci hanno portati a Udine a fare questi studi sui piloti delle frecce tricolore, perché anche loro hanno sollecitazioni importantissime. Certo. Quindi maggiore la sollecitazione sportiva, maggiore è l'attenzione al controllo di qualunque distretto del nostro corpo. E la mandibola, ci picchia se non è coinvolta in tutto questo, nell'equilibrio della testa, del capo, delle spalle. E questo cosa può portare? Dolori oppure performance più ridotte? Può portare dolore nel caso in cui l'atleta diventi un paziente, sì. Può portare eventualmente a un calo di performance nel caso in cui il corpo dedichi parte delle sue risorse energetiche alla compensazione di questi difetti invece che al massimo della prestazione sportiva. Allora, se io mi trovo a dover gestire un'occlusione anomala, tolgo risorse all'organismo per gestire invece il miglior risultato atletico possibile. 800 24 00 24, se siete sportivi amatoriali approfittatene. Intanto io vado a sentire Rosina da Modena, che forse... Rosina? Sì, sono qui. Eccola qua, sono Rosina. Ecco, bene. Ecco, sono qui. Tengo anche la cappa, ecco, perché sto cucinando. Bene, cosa sta facendo? Sto cucinando i fagiolini. Ah, perfetto, dai. Allora, Rosina. Io chiedevo... Voi dite di sorridere, sì. Certamente, però fino a che punto vale la pena di sorridere anche se le cose non vanno? Chiedevo soltanto questo. Beh, si dice aiutati che il cielo ti aiuta, è un sorriso, sì. È un sorriso un po'. Per tantissimi anni, e come è andata? Mi sono sposata a 19, non le so dire cosa mi è capitato, cosa non mi è capitato. No, poi ci sentiamo, immagino che ne siano capitati di tutti i colori e avrà dovuto sorridere molto, è un allenamento quotidiano. Rosina, io vorrei ringraziarla per tutte le persone che le sono state vicine in questi anni, a cui lei ha donato un sorriso. Molte volte bisogna sorridere non per se stesso, ma come ha fatto lei, Rosina, per tutta la vita, sorridere per gli altri. Ed è una cosa che lei ha fatto e che, di cui noi la ringraziamo. Luigi, da Lodi. Sì, pronto. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo portare la mia esperienza. Sì. 10 anni fa ho messo il bendaggio gastrico per problemi di chili. Sì. Non ho risolto il problema perché... alla fine ho imparato a masticare, sì. Quindi grazie a quello io oggi mastico molto. Volevo sapere dal dottore se è più importante masticare molto o masticare lentamente. Qua la voglio, dottor Gargiulo, masticare molto, quindi un trita tutto o prendersela comoda? No, sicuramente prendersela comoda. Sicuramente prendersela comoda, perché in realtà la masticazione lenta è la masticazione che consente al cibo di impastarsi, come succede nelle apparecchiature che si usano nei cantieri che impastano il cemento, così il cibo che si muove all'interno della bocca si impasta con la saliva e quindi scende più facilmente lungo il tubo digerente e arriva nello stomaco, che è già imbevuto di questo liquido che ha cominciato una prima digestione e facilita anche il compito dello stomaco. È importantissimo quindi una masticazione lenta, prolungata, e non una masticazione ad esempio veloce, che potrebbe addirittura creare dei problemi all'articolazione temporomandibolare. Il professor Nannuzzi prima parlava di quel menisco, cioè di quella piccola zona di tessuto che serve ad evitare l'attrito fra le due ossa che fra di loro si articolano. Ecco, quando noi mastichiamo velocemente lo sottoponiamo a un trauma che alla fine potrebbe creare problemi. Come è anche importante fare dei bocconi piccoli, evitare di fare il boccone grande, classico panino che noi addentiamo spalancando la bocca, non è un buon esercizio, perché anche perché si può rimanere, il professor Nannuzzi lo sa, a bocca aperta, certo. Lì e lì altro che essere e benessere. E siamo tornati insieme. Intanto sono arrivate le foto su Facebook, le abbiamo fatte dare un'occhiata ai nostri esperti, la foto di Claudio e la foto di Silvia. Professor Di Pietro, quale dei due vuole commentare? Allora, quella di Silvia, perché ha un sorriso che è veramente splendido. Grazie di averci mandato quel bellissimo sorriso. Apparentemente sembra non avere problemi. Mancava però una seconda foto con la bocca spalancata per vedere. Però apparentemente... È sempre in tempo, e siete in tempo anche voi a inviarcele o a mandarcele via mail, se volete, perché il professor Nannuzzi e il professor Di Pietro in giornata vi daranno una valutazione. Claudio, di Claudio che cosa diciamo invece? Di Claudio possiamo dire che ha una problematica particolare, perché è quello che noi chiamiamo morso incrociato, crossbite. Però bravo, no? Sì. Anche addirittura c'è, cioè, aperto, incrociato. È una situazione che si verifica quando da bambini non viene intercettato il palato un po' troppo stretto. La mandibola, costretta a stare in equilibrio su denti che non le danno un buon supporto, devia lateralmente e il soggetto si sviluppa così, con la mandibola spostata da un lato. I denti inferiori, che devono sempre stare coperti da quelli superiori, che sono disposti in una curva più ampia, si trovano allora a lavorare accavallati. E questo determina inevitabilmente un atteggiamento posturale che deve essere armonico a seguire questo tipo di impostazione mandibolare. Se una persona è fortunata, pur con capacità di compensazione un po' più ridotte, potrebbe anche vivere bene in questo modo. Se però si sviluppano le tensioni di cui il professor Di Pietro ci parlava prima, allora a un certo punto le due parti del corpo che sono interessate, la parte posturale bassa e quella alta della testa, non parlano più la stessa lingua. E qui ci vuole qualcuno che o insegni a queste due parti a ridurre queste tensioni, oppure ci vuole un interprete, un cuscinetto in mezzo che faccia da ammortizzatore fra le due parti per ridurre la tensione che si sviluppa. E a proposito di tensione, può essere sì. lei responsabile degli acufeni? Gli ascoltatori ci chiedono molte, sono molto interessati a questo. Certo. Questi fischi, ronzii che avvertiamo a livello delle orecchie, possono in qualche modo trovare la loro causa in una, in una scorretta occlusione? Sì, sì, sono molti casi. L'acufene è sempre un grande problema, perché non si sa davvero dove mettere le mani, perché effettivamente può dipendere da tantissime cose. Molti acufeni, ma non tutti, dopo aver fatto ovviamente la visita dall'otorino e ha verificato che non ci sono problemi dal suo punto di vista, vale la pena indagarli proprio da un punto di vista occlusale, sempre la solita ATM, articolazione temporomandibolare, che non chiudendo bene, creando delle spinte verso, sì. Verso la zona che sta dietro l'orecchio, per parlare in modo chiaro e corretto, possono dare questo tipo di problemi, a volte anche con delle microinfiammazioni in quella sì. zona, dove l'infiammazione non è altro che una bollicina di siero che continua a ingrandirsi, a volte non la sentiamo finché non tocca un nervo, e quindi il dolore possiamo non sentirlo, ma non è solo il dolore, a volte può essere anche una piccola spinta che sì. Attraverso una successione di spinte arriva ad appoggiarsi un pochino su quello che è il nervo acustico, dando questo tipo di problemi. Professor Nanussi, Vito da Bari ci scrive: ma Totò che problemi aveva alla bocca? Adesso arriveranno tutte le foto e si immagino il dottor Gargiulo se la ride. Che problema aveva Totò? È acuto Vito da Bari? Da quello che so di Totò, probabilmente il problema aveva che baciava troppo, perché era un grande donnaiolo, quindi verosimilmente. In più sapeva anche come ridere e far ridere. Dottor Gargiulo, faceva molto bene, perché assolutamente, perché il bacio è una delle cose più belle che possiamo fare e soprattutto una delle cose più utili per il nostro organismo. Pensate che un bacio consuma, all'incirca un bacio che duri un minuto riesce a farci consumare 6 calorie al minuto, poche attività fisiche riescono a farcele consumare. Perché? Perché mette in movimento un numero notevole di muscoli. Vediamo un po', facciamo un test, sarebbe carino sentire i nostri ascoltatori. Dai, o vogliamo ce la facciamo dare aspettiamo dal centralino, dare la centralino penso che no, Laura, possiamo lanciare. Allora, quanti muscoli si mettono in movimento con un bacio passionale, un bacio profondo? Non suggerisca, professor Ranussi, allora apriamo la libreria di Essere Benessere e daremo un libro al primo ascoltatore che chiamerà all'800 24 00 24. Siate gentili con il nostro centralino, perché noi abbiamo improvvisato questo quiz e mi diranno: Nico, all'ultimo, così. Allora, abbiamo Luigi dalla provincia di Bari. Buongiorno Luigi. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Avrei solo una domanda. Sì. Ho la cattiva abitudine di mordicchiarmi le labbra, e mentre faccio questo movimento qui la mandibola si sposta verso destra. In più sono un runner e vorrei capire se questo vizio, insomma, a cosa può portare, se c'è una soluzione per... Morde il superiore o l'inferiore, Luigi? Superiore. Allora, runner, morsicatore di labbra, professor Nanussi, che cosa gli diciamo? Per quello che riguarda il mordicchiarsi il labbro superiore, io direi che è quasi un utile esercizio di stretching che sta facendo per i muscoli mandibolari e per l'articolazione. Uno degli esercizi per rilassare la muscolatura delle guance, i masseteri, è proprio quello di portare la mandibola in avanti e soffiarsi aria verso il naso. Quindi qui non vedo niente di male. È un esercizio che lo usiamo, certo. Potremmo utilizzare. Quanto al fatto che ami correre, magari anche in modo professionale o agonistico, ovviamente quando corre terrà la bocca aperta. Tuttavia, ogni volta che lei deglutisce, lo fa almeno 2000 volte al giorno, i denti vanno in contatto ed è in quel momento che è bene essere certi che i rapporti che si stabiliscano siano corretti. Se poi si trova a serrare i denti comunque per aumentare il suo carico muscolare, a maggior ragione faccia esaminare la sua bocca da uno specialista, perché potrebbe trarre vantaggio da un'occlusione migliore, nel caso in cui ne avesse bisogno, chiaramente. Allora, Paolo da Torino mi scrive: finalmente ho capito perché ingrasso, non bacio. Baci Paolo! E intanto noi accogliamo con un sorriso Andrea Ribaldone. Ciao Andrea! Ciao Nico e ciao a tutti gli ascoltatori. Executive Chef Italy Tokyo e per essere benessere Radio 24, autore e ideatore di Controsoffritto, le ricette così rapide che durano meno del tempo per preparare un soffritto, potete vederle e vi invito a seguirle sulla pagina di Essere Benessere, naturalmente sul sito di Radio 24. Andrea, è quasi ora, sono le 11:54, ci fai venire l'acquolina in bocca oggi che proprio parliamo oggi di bocca? Faremo muovere tutta la muscolatura davvero con asparagi e uovo fritto alla milanese. È una ricetta molto semplice, prendete un uovo, lo cuocete per 5 minuti esatti, proprio col cronometro, in acqua già calda, già bollente, poi lo raffreddate subito, lo sgusciate e vedrete che esternamente sarà ben formato, all'interno il rosso sarà ancora morbido, lo impanate nelle uova e nel pan grattato come fare una bistecca alla milanese e lo friggete, ma giusto qualche istante perché la panatura diventi croccante. Fate con gli asparagi, li pulite per bene, sì, e poi li sbollentate in acqua, solita solito modo, il tempo giusto perché siano ancora croccanti, li tagliate e servite l'uovo con fritto con i vostri asparagi croccanti. Vedete, semplicissimo e anche poco costoso. Buonissimo come sempre e soprattutto potete seguire la ricetta nel filmatino di Controsoffritto, vi vedete anche Andrea Ribaldone all'opera. Grazie Andrea. Ciao, grazie. Grazie, a tutti, grazie. Seguite anche le altre ricette di Controsoffritto, dottor Gargiulo, grazie. Professor grazie. Nanussi, alla prossima. Grazie anche grazie naturalmente al professor Di Pietro grazie che ci ha fatto fare dei test fantastici. Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e anche il centralino, non mi avete detto i muscoli, quanti erano? 35. 35. Buona giornata a tutti. Essere e benessere.